Manuela, buongiorno. Buongiorno. È allibita. Allibita. E perché è No, allibita? ridevo sola. No, perché mi sono messa nei panni di tutte quelle mogli, siccome la colpa è un po' nostra se loro vanno a trans. Potrebbero essere anche i suoi panni, perché lo Ma escludo? certo, no, no, no, infatti no, Ha non fatto metto la in prova dubbio. Non finestra suo marito? l'ho fatta. Non ha avuto Però, coraggio? ma provi a pensare, Nicoletti, cioè, tu lavori tutto il giorno e pannolini, biberon, chi ce li ha e chi Eh beh, ci sì, la abbiamo avuti prende. tutti per le Fai mani. la cena e poi la sera vai in camera e tiri fuori manette e frustini. E Cioè, allora? ma chi ce l'ha la forza e la voglia? Cioè, lei lo fa, il suo ospite lo fa per mestiere, la sua ospite lo fa per mestiere. E quindi, diciamo, è come giocare in Serie A e noi giochiamo calcetto la Lei dice domenica. facile addobbarsi quando uno non c'ha altro lavoro da fare, è vero, sì. Cioè, lei è il suo mestiere, per noi sarebbe un po' dura, penso, Eh cioè, sì, però signora mia, se uno trasformarsi. vuole mantenere, diciamo, il rapporto di coppia è fatto di doveri, Sì. di necessità, di Sì, condivisione, ma di sarà meno oneri. Ma fantasioso. Il sì, però nostro sarà un modo di far sesso un po' meno Sì, però fantasioso. Poi esiste anche 20 anni quella. che lo fai con la stessa persona? Cioè, Sì. non è come lei che magari cambia la fortuna di cambiare? Lei dice non c'è battaglia. Non È c'è vero. paragone, Sì, abbiamo ma perso in no, ma partenza. questo comunque sempre nei confronti degli adulteri, delle infedeltà, è chiaro. Le coppie cementate dall'impegno, dall'amore, dalla vita comune, sanno che c'è qualcosa al di fuori che sfriccica e aleggia, delle quali non si può fare a meno.